Toscano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Soldi alle banche? Secondo Francesco Greco, capo del pool per i reati finanziari della Procura di Milano, prima bisognerebbe chiedersi se la fiducia non debba essere fondata su nuove regole a tutela dei risparmiatori. Il PM di Parmalat e Antonveneta aggiunge: gli istituti di credito hanno fatto profitti con una mutazione genetica e anche alcune autorità di vigilanza hanno investito in hedge funds. Ancora, deve terminare questo senso di impunità, ma il Parlamento vuole ridurre le pene per la bancarotta. Dagli studi di Radio 24, un saluto da Bruno Perini, regia con noi Carmelo Lauricella. Io vi ho letto l'attacco che si ritrova sulla stampa, il quotidiano La Stampa, e Paolo Colonnello che intervista in via, diciamo, eccezionale, perché non è un magistrato che si fa intervistare tanto facilmente, il PM Francesco Greco. Cosa non va, dottor Greco, chiede Paolo Colonnello. C'è, a proposito, stiamo parlando, ovviamente è chiaro, della crisi finanziaria che ha colpito tutto il mondo e del commento di uno dei magistrati di punta del pool di Milano. C'è molta ipocrisia e ambiguità in questi giorni. Capisco l'urgenza dell'intervento globale per contrastare la sfiducia dei mercati, la crisi finanziaria, patrimoniale e di liquidità delle banche. Comprendo che sia necessario porre immediatamente un freno alla speculazione. Tuttavia bisognerebbe chiedersi se la fiducia non debba in primo luogo essere fondata su regole nuove che garantiscano e tutelino i risparmiatori ed impediscano alla finanza di continuare a replicare carta e trucchi da saltimbanco, anche avvalendosi dei veicoli speciali a scopo d'inganno. Domanda: il salvataggio delle banche è sembrato necessario, non trova? La cosiddetta finanziarizzazione del mondo consentita alle banche e alle assicurazioni si è rivelata lo strumento principale per scaricare sul mercato il rischio di credito e per drenare i risparmi e gli investimenti soprattutto dei piccoli risparmiatori. Questo ha comportato una mutazione genetica delle banche, che hanno fatto ingenti profitti soprattutto con il settore dell'investment banking. A chi pensa quando parla di ipocrisia? Penso all'assenza di controlli che c'è stato finora. Mi chiedo, ma chi ha consentito alla finanza di vivere al di fuori delle regole? Chi ha consentito la distribuzione dei prodotti tossici e l'utilizzo di veicoli esotici fuori controllo e non consolidati? Chi ha accettato i meccanismi di non tassazione delle stock option e delle operazioni in paradisi fiscali? L'elenco potrebbe andare avanti all'infinito. Questo dice Francesco Greco in questa intervista esclusiva al quotidiano La Stampa, fatta da Paolo Colonnello. Il titolo del principale della Stampa riflette uno delle notizie più importanti che ci sono oggi su tutti i quotidiani: USA e Italia, misure anticrisi. E sul clima invece altra notizia importante: muro contro muro a Bruxelles, la UE dice no al rinvio del piano, il governo replica, e vedremo poi un'intervista sul Sole 24 Ore del ministro Prestigiacomo. Modifiche opporremo il veto, questa è la linea dura del governo italiano. La Stampa ospita anche un intervento di Emanuele Macaluso, che è polemico, diciamo, e in qualche modo mette il dito sulla piaga della vicenda che sta un po' terremotando il Partito Democratico di Veltroni, la rottura tra Veltroni e Di Pietro. Scrive Emanuele Macaluso: Di Pietro è lontano dalla cultura democratica, ha detto Walter Veltroni, annunciando nel corso della trasmissione che tempo che fa la fine dell'alleanza tra il suo partito e quello personale dell'ex PM. Certo, il fatto che il segretario del PD scelga la TV di intrattenimento per comunicare ai militanti e agli elettori una decisione politica rilevante ci dice che tempo che fa nell'universo politico di questo paese. Del resto, non so chi alla vigilia dell'elezione del PD decise di dare a Di Pietro quello che è stato negato ai socialisti, un'alleanza che grazie a una balorda legge elettorale premiava il partito di Pietrista, che usufruiva del voto utile invocato da Veltroni. Ci sono ampie considerazioni da parte di Emanuele Macaluso a proposito di questa cosa, Macaluso ricostruisce tutti i rapporti conflittuali tra PD ma anche di solidarietà tra PD e tra la tradizione, prima del Partito Democratico, poi del PDS e la magistratura. Dice appunto questa tradizione, un'impronta che ha consentito all'ex PM di fare un partito personale in grado di condizionare il PD non solo sui temi della giustizia, ma anche sul tema centrale che attiene ai rapporti tra governo e opposizione. Insomma, il Partito Democratico era ormai ostaggio di Di Pietro e non aveva più spazio di manovra politica. Oggi le cose cambiano? Certo, ma la guida politica del PD, non solo i Veltroni, ancora una volta si rivela debole perché incerta è la sua cultura politica, scrive Macaluso. Rutelli vuole rifondare il partito e su quali basi? Se si vuole aprire un dibattito reale, insisto su ciò che ha già scritto su queste colonne, occorre un congresso vero, su mozioni diverse e con candidati che esprimano una cultura e una posizione politica chiara e leggibile per tutti gli italiani. Questa è la posizione che si trova sul quotidiano La Stampa. Ma io vorrei ricordarvi che è fortissimo il titolo invece del quotidiano Libero a questo proposito. Libero scrive: caso Di Pietro, se questo è un fascista. Veltroni mette la camicia nera al leader dell'Italia dei Valori e così sabato in piazza se lo troverà contro. La manifestazione rischia di essere un autogol per il Partito Democratico ed è proprio Vittorio Feltri che firma il suo commento editoriale che così e conclude. Insomma, ecco, per Veltroni ha fatto della vaselina il suo stile oratorio, non si è trattenuto a ricorrere alle banalità nel tentativo di rintuzzare gli attacchi di Tonino, il fascista. Questo dice Walter, andrà in piazza ed avrà contro non solo il paese responsabile, stanco di sopportare le litanie buoniste, ma anche Di Pietro, che lo seppellirà con una risata, e Berlusconi si fregherà soddisfatto le mani. Sciocchi si nasce e sciocchi si rimane. Questo è il commento di Vittorio Feltri a proposito della rottura tra Di Pietro e Veltroni. Un paese che esilia i giovani talenti distrugge il suo futuro. Questo il Sole 24 Ore in prima pagina. Salvatore Settis propone una riflessione molto approfondita su questo tema. Dice: secondo l'Istituto di Ricerca Economica di Berlino, da anni il nostro paese esporta migliaia di ricercatori e per ogni 10 che se ne vanno, meno di uno viene o torna dall'estero. Ma in nome di che cosa i governi italiani, in ammirevole sintonia bipartisan, si industriano a favorire la diaspora dei migliori giovani dal paese? Dietro questa ostinazione c'è un'ideologia, un progetto? C'è un'idea dell'Italia, del suo futuro? Sì, Salvatore Settis ricerca l'Italia in testa coda, prima nella UE per potenzialità e ultima per attrattività degli stranieri. E questo interessante articolo sul Sole 24 Ore. Dice, scrive ancora Settis, il paradosso è che i finanziamenti per università e ricerca in Italia sono da troppi anni strutturalmente insufficienti, meno di un terzo dell'obiettivo fissato dall'agenda di Lisbona, ma al tempo stesso le scarse risorse vengono spesso sprecate o mal spese. Ma nessuna scure che si abbatta alla cieca ha mai generato nuove forme di virtù, colpendo in misura uguale chi ha gestito malissimo le proprie risorse e chi lo ha fatto al meglio. La legge Tremonti non ha dato all'università italiana il segnale giusto. Questo si legge sul Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore, voglio ricordarvi, apre con aiuti alle piccole e medie imprese e nuove regole sui bonus fiscali. Marcegaglia, per chi investe i crediti non siano automatici, proposte che riguardano i vari settori e un po' tutto il sistema delle piccole e medie imprese. È questo il pacchetto di aiuti che il presidente di Confindustria Marcegaglia chiede al governo, insieme a una revisione del credito di imposta sugli investimenti, oggi basato sulla prenotazione. Ancora il Sole 24 Ore pubblica il resoconto, diciamo, di un dibattito che c'è stato a Milano con Tremonti e Mario Monti. La politica non ha nessuna intenzione di entrare nelle banche, non esistono disegni di dominio luciferino, dice il ministro Tremonti, ma accanto invece abbiamo la notizia per cui lo Stato francese entrerà nelle 6 maggiori banche. Questo lo Stato francese ha annunciato ieri sera il ministro dell'economia Christine Lagarde interverrà con 10,5 miliardi in prestiti subordinati senza diritto di voto nelle 6 maggiori banche francesi. Questo avviene in Francia. E ancora il Sole 24 Ore, voglio ricordarvi il come apre Finanza e Mercati, il dorso del quotidiano, il dorso finanziario del quotidiano. Moria Longo scrive l'articolo: causa Parmalat, City batte Bondi. La strategia legale di Parmalat contro le banche si è improvvisamente trasformata in un boomerang. La Corte Suprema di Bergen County, nel New Jersey, ieri sera ha infatti respinto la maxi causa di risarcimento danni avviata dal gruppo di Collecchio contro Citigroup e ha accolto le controazioni della banca americana. Morale, il gruppo di Collecchio, che aveva in origine avviato l'azione chiedendo Citigroup fino a 10 miliardi di dollari di danni, è stato condannato a risarcire alla banca americana 364 milioni di dollari. E questo è il risultato, insomma, non è una bella notizia questa che abbiamo appena letto. Ora io volevo trasferirmi rapidamente su un altro quotidiano, il Riformista. Il Riformista invece da spazio apre, intanto sì, certo, come molti giornali italiani, scrive della morte del grande vecchio della sinistra Vittorio Foa. Il secolo breve, se n'è andato Foa, il più giovane apolide di sinistra, è stato il padre della sinistra, scrive Peppino Caldarola, che non ha mai trovato il suo partito. Vittorio Foa nel suo secolo di vita ha guidato, incoraggiato, rimproverato le carovane della sinistra che affrontavano il campo aperto, non si mai fermato su ieri, se non per quella breve sosta che lo portava a guardare il futuro. E poi ancora, però, l'apertura vera del Riformista è su una notizia tragica, purtroppo. Inferno talebano. Ammazzata a Kabul una cooperante britannica, Gayle Williams. L'omicidio è stato rivendicato dai talebani. Lavorava per una ONG che predica il cristianesimo. Si chiamava Gayle Williams e lavorava a Kabul per una ONG britannica di ispirazione cristiana. È stata uccisa nella capitale afghana da due sicari in moto che le hanno sparato con una pistola. L'omicidio è stato rivendicato con una telefonata dal portavoce talebano Zabiullah Mujahid. L'abbiamo assassinata perché apparteneva a un'organizzazione che predica il cristianesimo in Afghanistan. Mujahid ha anche rivendicato un altro attentato compiuto ieri a Kunduz, nel nord, ammazzati 5 bambini e 2 soldati tedeschi della NATO. Quindi questo ci dice che, insomma, l'emergenza Afghanistan non è affatto conclusa. E questo il Riformista, che come voi sapete da ieri ha una nuova veste, 32 pagine. E voglio invece andare al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera affida intanto a Massimo Gaggi una riflessione sul fattore Powell. Sì, Colin Powell, che è passato dal fronte repubblicano al fronte democratico e ha dichiarato apertamente la sua adesione all'impresa di Barack Obama. Chi pensava che la scelta di Sarah Palin come vicepresidente sarebbe rivelata un boomerang per John McCain, oggi gongola. Annunciando il suo appoggio a Barack Obama, Colin Powell fa molto di più che allargare il fronte multietnico che già sostiene il candidato democratico. Con la sua reputazione di patriota e di repubblicano moderato che ha servito il paese con Reagan, consigliere per la sicurezza nazionale, con Bush padre, capo degli stati maggiori al Pentagono, e Bush figlio, ministro degli esteri, Powell smonta l'ultima disperata offensiva, quella del discredito, messa in piedi dagli strateghi elettorali del senatore dell'Arizona. Obama amico di terroristi, Obama sospettato di essere un musulmano, nascosto, insinuazioni pesanti affidate a qualche spot in TV o buttate lì nei comizi arrembanti della Palin. E insomma, questa è la tesi di Massimo Gaggi, questa strategia di di attacchi personali non ha funzionato. È qui che è arrivato il boomerang Powell. Mi dispiace deludere il mio amico McCain, ma Obama ha un'agenda politica più convincente ed è un personaggio maggiormente in grado col suo team di avviare le trasformazioni di cui il paese ha bisogno, di superare steccati etnici, razziali e generazionali. Questo parole di Colin Powell, che più che allargare il già vasto consenso di Obama nelle minoranze etniche spuntano le armi di McCain nella battaglia per la conquista dei moderati. Questo scrive Massimo Gaggi. Voglio anche segnalarvi un attacco durissimo di Ottaviano Del Turco al Partito Democratico, che si legge a pagina sul Corriere della Sera. Dice Ottaviano Del Turco: io sono un fondatore del PD. Per il Partito Democratico ho pagato un prezzo, ho rotto con i compagni socialisti amici di una vita, Boselli, Villetti, Intini. Ora vedo i loro sorrisetti, capisco che mi stanno dicendo: ti avevamo avvisato, non fidarti dei comunisti, e capisco che avevano ragione loro. Il titolo, tra le altre cose, di questo articolo è significativo: meglio Berlusconi di questo Partito Democratico, mi hanno trattato da delinquente. Sì, e lo leggiamo ancora, Ottaviano Del Turco ha ancora qualcosa da dire. Del resto sono stato zitto per 100 giorni, ha sottomano i ritagli dei giornali con le reazioni alla sua intervista a Vespa, ancora nessuna traccia della solidarietà che attendeva dal PD. Leggo invece che l'Unità si schiera con la procura e adombra che io vorrei candidarmi alle europee con la destra. Questo è troppo. Agnosco stilum è il consueto escamotage della scuola comunista. Quando vuoi scaricare qualcuno lo additi come uno che sta per tradire. Forse è il momento che io racconti come si sono comportati i dirigenti del mio partito mentre io stavo in galera. Quindi questo è davvero una critica pesantissima al Partito Democratico da parte di Ottaviano Del Turco, che proprio è stato da Vespa per raccontare, intervistato da Vespa per raccontare la sua versione dell'inchiesta che lo ha coinvolto in Abruzzo. Questo vi dicevo, il Corriere della Sera. Ma se dobbiamo rimanere nelle critiche che vengono dall'interno del centro-sinistra al Partito Democratico, dobbiamo andare al quotidiano Il Giornale, perché Il Giornale, tra le altre cose, intervista Massimo Cacciari, sindaco di Venezia. A volte lo dipingono, è Luca Telese che lo fa, come il grande bastian contrario, ma la verità è che il tono di Massimo Cacciari, l'uomo simbolo del PD nel nord-est, quando parla delle ultime vicende del suo partito, è piuttosto quello del disincanto. Il sindaco di Venezia fa una riflessione pacata, lucida e a tratti pessimistica. Dice sconsolato che per il nord nel PD si è fatto meno dello 0,1% di quello che serve. Aggiunge: è folle ridursi ad attendere passi falsi di Berlusconi. Dice che il governo ombra ha fatto poco o nulla e andrebbe già reimpastato. E alla fine una pietra tombale sulla manifestazione del 25 ottobre è frutto di errori tattici e strategici. Io non ci sarò, ci vadano i demagoghi. E questo, insomma, è l'intervista. Voglio, tra le altre cose, ricordarvi che stamane, alla trasmissione condotta dal direttore Gianfranco Fabi, Dietro la Notizia, ci sarà ospite proprio il direttore del giornale Giordano, che probabilmente, tra le tante cose di cui potrà parlare, ci sarà anche quella del rinnovo grafico del suo quotidiano, Il Giornale, appunto. Mario Giordano quindi sarà ospite in questa trasmissione. Il Giornale titola: scuola, ora scoppia supplentopoli. Sì, l'ultimo scandalo, insegnanti pagate per restare a casa, accettano l'incarico, poi si mettono in maternità. Per scalare le graduatorie a Napoli pagano tangenti. E a Latina fatte 574 telefonate per sostituire un professore. Questo il quotidiano Il Giornale, diverso naturalmente orientamento è quello dell'Unità. L'Unità titola: la notizia più importante per l'Unità oggi è Verona, sindaco condannato, ha diffuso idee razziste. Il sindaco di Verona, Flavio Tosi, è stato condannato a 2 anni di reclusione dalla Corte d'Appello di Venezia per propaganda di idee razziste. I fatti contestati risalgono al 2001, quando lanciò una campagna contro alcuni insediamenti rom al grido di "zingari devono essere mandati via, perché dove arrivano ci sono furti". immediata la reazione di Tosi, che ha annunciato un nuovo ricorso alla Suprema Corte. Rifarei tutto ciò che ho fatto per difendere i miei concittadini. Purtroppo devo constatare come nella magistratura ci sia ancora chi non sa distinguere fra chi delinque e chi difende le persone oneste. Come primo cittadino, il suo atto d'esordio fu lo smantellamento di un campo nobile con 120 persone, di cui 70 bambini. Anche l'Unità, ovviamente, titola «È morto Vittorio Foa, il ragazzo della sinistra». Adesso, outlet e spazi aziendali, shopping online, i farmer market, i gruppi di acquisto solidale, articoli sfusi o alla spina, grande distribuzione. Queste le indicazioni contenute nel volume La Spesa, sì, perché con il Sole 24 Ore, che in edicola resterà per tutta la settimana, il primo volume della collana dedicata al low cost di qualità. Questo volume appunto dedicato alla spesa seguiranno per 10 settimane gli altri volumi, ognuno a 4,90 euro. Ve lo volevo ricordare perché è un'iniziativa del Sole 24 Ore che sta, tra le altre cose, avendo molto successo. Ora torniamo invece al dato, al quotidiano La Repubblica. Il quotidiano La Repubblica, beh, intanto anche qui lo spazio all'addio a Vittorio Foa è enorme. Maestro della sinistra, l'uomo che sapeva parlare ai giovani, scrive Miriam Mafai. Da qualche anno Vittorio Foa si era rifugiato con Sesa a Formia, dove lo raggiungevano spesso i suoi amici. Ricordo qualche anno fa un suo compleanno celebrato insieme, occasione anche per discutere l'ultimo libro, Il silenzio dei comunisti, che portava la sua firma assieme a quella di Alfredo Reichlin e della sottoscritta. Poi il quotidiano La Repubblica dedica ancora grande spazio, 100.000 firme in difesa di Saviano. Sono 100.000 le firme in calce all'appello Lottiamo per Saviano, firmato ieri da 6 premi Nobel in difesa dello scrittore napoletano minacciato dalla camorra. Oltre ai premi Nobel abbiamo dei nomi altisonanti, importanti della letteratura e diciamo della cultura: Martin Amis, Nathan Engleder, Hans Magnus Enzensberger, Jonathan Safran Foer, Jonathan Franzen, Jonathan Lethem, Javier Maria, Ian McEwan, José Saramago, Peter Schneider e altri ancora. Poi, vabbè, il titolo forte di centropagina sotto l'addio a Vittorio Foa, Italia UE, battaglia sul clima, dove si registra lo scontro. E poi c'è, voglio ricordarvi un richiamo in prima pagina abbastanza interessante, un servizio di Maurizio Crosetti e Paolo Griseri, restare senza lavoro e ricominciare a 50 anni. Questo è interessante anche perché è drammatico restare senza lavoro a quell'età lì, lo sanno in molti, soprattutto i malcapitati. La statistica dice che il precipizio arriva tra i 45 e i 55, una vita da impiegato, poi la ristrutturazione e la disoccupazione. In Italia sono 900.000 gli ex occupati con i capelli bianchi e aumentano di 45.000 all'anno. Nella fascia d'età tra i 25 e i 55 anni lavorano 7 italiani su 10, tra i 55 e i 65 anni solo 3 su 10. Che fine fanno gli altri 4? Questo è l'interrogativo che troviamo sul quotidiano La Repubblica. E mentre sul Messaggero, il Messaggero usa piano di nuovi sgravi fiscali, questo è il titolo più importante. E poi ancora sbloccare tutti gli investimenti, opere pubbliche, innovazione e ricerca, di Roberta Amoruso. La parola chiave è investimenti, sbloccare le risorse per le opere pubbliche, l'innovazione e la ricerca, è l'intervento in cima alle liste delle richieste delle imprese. Capitoli cruciali questi anche per sostenere l'economia minacciata dagli effetti della crisi finanziaria. Gli incentivi fiscali sui prodotti poi possono servire a stimolare i consumi. E ancora la vicenda, il delitto di Perugia, la TV USA NBC, negligenze investigative, la polizia italiana replica: nessun errore. Mez, un video accusa, le prove sono inquinate. Addirittura questa è la tesi di fondo. L'Avvenire dedica grande spazio a un tema molto caro e molto drammatico per i giovani. Alcol sempre più giovane. società, 9 milioni di italiani, gli italiani che bevono troppo. Il sottosegretario Roccella alla prima conferenza nazionale, vuoti legislativi da colmare, a rischio 740.000 minorenni, abuso di cocktail già a 11 anni. Incredibile questa età. Ogni anno sarebbero evitabili migliaia di patologie e di morti. Su 100 individui maschi a rischio, ben 7 sono minorenni, tra gli 11 e i 15 anni, ad abusare di alcolici, e ormai un ragazzo su 5, questo scrive l'Avvenire in prima pagina, valutate in almeno 25.000 all'anno le vittime del consumo eccessivo di bevande di diversa gradazione. Oltre il 46% delle vittime degli incidenti del sabato sera sono giovani tra i 15 e i 24 anni. Il governo studia nuove misure per affrontare l'emergenza. E poi vabbè, c'è invece un grande servizio sul il pellegrinaggio al santuario mariano di Pompei, il Papa, il rosario, via segreta del riscatto pieno. Se noi ci trasferiamo invece sul quotidiano Il Manifesto, tutta la polemica relativa allo scontro che c'è in atto tra UE e Italia, qui il titolo per esempio del Sole è senza modifiche, no dell'Italia sul clima, la UE sì al confronto, è questo. E poi c'è un ricco brivio che dice così le imprese fuggiranno, e è un'intervista peraltro al ministro Prestigiacomo. Ma il Manifesto la pensa diversamente, il titolo è molto spiritoso, l'isola dei fumosi, non dei famosi, l'Unione Europea non fa sconti all'Italia, nessun rinvio sul pacchetto clima, il governo Berlusconi minacci far saltare l'accordo e per tutta risposta reintroduce gli incentivi per chi rottama l'auto. Ed è Mario Ciacciotta, direttore, uno dei due direttori del Manifesto, che scrive: l'Italia blindata nei suoi confini autarchica e nazional popolare è stata smascherata ieri a Lussemburgo. Il pacchetto clima non sarà rinviato, ha stabilito il vertice dei ministri europei dell'ambiente, bocciato lo stop di un anno chiesto dal governo Berlusconi per valutare costi e benefici dell'iniziativa che non ha ragione di essere posticipata, secondo il commissario UE Stavros Dima. Risponde patrioticamente Stefania Prestigiacomo, che parla a nome della sua Confindustria: non ci arrenderemo, e minaccia, se non ci saranno modifiche importanti, di disertare l'appuntamento di Copenaghen 2009 e allearci con il paese dell'Est, improvvisamente diventati modello di riferimento e, in un paradosso storico, additati dall'opposizione come figli di un dio minore. Non siamo mica la Bulgaria. Questo era uno dei motti che veniva portato avanti, e a questo punto io volevo concludere ancora con un richiamo nello sport, una cosa che riguarda la Juventus, sempre sulla Repubblica: viaggio nella Juve perduta, i tifosi ridateci Moggi, Ranieri come un console in esilio, e stasera la corrida con il Real. E con questa richiamo breve dalla Repubblica, un saluto a tutti gli ascoltatori e ci sentiamo domattina.